nelle fessure della terra, negli interstizi dei muri, nelle cuciture dei vestiti, tra le rughe della pelle. Chi sbuca dallo specchio, chi fa tremare nel buio, chi si accende nella fiamma, chi sospetta di ogni cosa, chi tra una costola ed un cervello, tra i fegati e i polmoni, si annida in agguato. Mi aspetta la paura. Siamo tutti piccoli dei, creiamo il mondo a nostra immagine e somiglianza. Siamo tutti piccoli dei, creiamo il mondo. Oh.